בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Benvenuti e buona serata a tutti voi, amici di Blu Radio Veneto. Blu Time di sabato, un'occasione particolare per presentarvi un gruppo molto molto interessante. Quindi vado immediatamente a salutare Maurizio Calzavara, ricordando che io sono Francesco Galante e che in questo spazio vi regaleremo un'ora e mezza di buona musica dal vivo, e con noi abbiamo una band. Maurizio. Buonasera Francesco, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, stasera abbiamo Manuel Volpe. Ciao. Benvenuto Manuel. Grazie. Assieme alla sua band. Gruppo interessante, assolutamente acustico, con una piccola chitarra un po' effettata, vero Manuel? Sì. Presentiamo la tua band, Manuel. Allora, al clarinetto c'è, e al banjo oggi c'è Maurizio Busca, che è anche il tuo coproduttore, dell'album. Disco. Ciao a tutti. E alla batteria e alle percussioni c'è Simone Pozzi, anche lui che ha partecipato al disco. Bene, intanto innanzitutto partiamo dal disco. È un titolo chilometrico, Wettmülleriano, qualcuno ha detto, alla Wettmüller, non come significato, sì. Ma come lunghezza del titolo. Allora, il titolo non è farina del mio sacco, nel senso che è stato proposto da una mia amica nel momento in cui aveva letto i testi, ascoltato il disco in anteprima, e così io non sono molto bravo a dare i titoli alle cose. Un po' sapore alla Hemingway. Esatto. Vero. esattamente. Di fatto comunque era un tema, che il fatto della luce era un tema che era uscito fuori nel momento in cui si parlava di come nominare questo disco, perché poi di fatto volevo poi cercare un titolo che come si può dire, potesse dare un segno forte, sì, di quello che è la chiave di lettura di questo, di tutti questi brani e questo lavoro. E quindi niente, questa mia amica se ne esce fuori con questa frase bellissima. Come lies beside me as I turn my face towards the light. The light, cioè alla fine la luce. Sì, esatto. Da indice di una cosa. E anche musicalmente è molto soffuso come disco, molto delicato. Sì. Tu canti, io ho pensato più che cantare reciti, nel senso positivo del termine. Sì, io non ho mai cantato in vita mia. Cioè questa, con l'idea di questo disco mi sono detto ok, mettiamoci anche delle parole. Delle parole. A me piace più scrivere la musica, sì, arrangiare. Tu sei suonare, un arrangiatore, sì, ami piace, jazz, esatto, ami determinati suoni. Musicalmente sei nato anche con la noise, sì. Hai vedo una band che si chiamava Bava. Esattamente, è stato un periodo molto bello con dei miei amici di Iesi con cui andavo addirittura alla scuola insieme. Abbiamo fatto un disco e un tour europeo davvero... Ah, un tour europeo, quindi interessante, sì, importante. Sì, comunque è un tour europeo nell'organizzazione del DIY, quindi nel senso locali, contattati via MySpace, condizioni, però divertentissimo, cose che si fanno bene a 19 anni. E poi sei anche tecnico del suono. Sì, dopo la maturità ho fatto un corso di tecnico del suono presso l'azienda di Red House Recordings di Senigallia, e alla fine di questo corso David Lenci, che è il proprietario, mi aveva chiesto di rimanere così, io ero appunto, avevo 19 anni, quindi era più un'opportunità di imparare anche un mestiere, o comunque per me di fatto era l'opportunità di conoscere tantissime cose del mondo della produzione, con tantissimi personaggi che passavano, che gravitavano in quello studio, che erano personaggi comunque di grosso calibro. Di grosso calibro. Citiamo tra l'altro, ho letto Steve Albini, Rob Ellis, con BJ Harvey, che non ricorda BJ Harvey, che non ricordare Rob Ellis. Facciamo una cosa molto semplice, apriamo la finestra e presentiamo il primo pezzo dell'album per dare un'idea anche agli nostri ascoltatori, sì, del tuo sound, vero Francesco? Cosa dici? Sì, sono d'accordo. La traccia numero 2 dell'album di Manuel Volpe si intitola The Latest Rose. L'andiamo subito ad ascoltare. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Blu Time. wait for me while I'm coming. Don't try to hurry the time. Believe me, a promise is a promise. I swear I tell you no lie. Ed è così che abbiamo ascoltato questa traccia, la traccia numero 2 dell'album di Manuel Volpe, intitolata The Latest Rose. E allora, Maurizio. Sì, una traccia importante, perché secondo me c'è un assieme tra Mitteleuropa e anche Oriente. Come mai c'è un po' di Oriente? Manuel, in questa c'è Maurizio che ha deciso l'Oriente. Maurizio, hai deciso? Non ho deciso allora, nulla. Non hai deciso nulla. No. Lui stai dicendo una bugia. Perché questo qui, siccome c'è scritto nel disco, è sì. L'unico pezzo che è scritto a due mani, diciamo così, composto proprio tra te, fra me e Maurizio. E quindi il tema è stato proprio tirato giù da Maurizio. Quindi l'idea di questa Mitteleuropa che fiancheggia l'Oriente. Esattamente. O che è l'Oriente stesso, praticamente. È uno strumento, un tema appunto che esce fuori anche dal suono del clarinetto. Esattamente. Maurizio suona il clarinetto e poi sentiremo. Esattamente. Quindi poi dopo di fatto è stato arrangiato, orchestrato di più, però nasce proprio con il clarinetto. Poi una cosa che mentre il pezzo andava dicevi che praticamente Simone si è un po' tenuto, visto che è un batterista, lui è un batterista, un rocchettaro, si è un po' tenuto, t'hanno tenuto praticamente. Io suono con Simone da 8 anni forse di più, cioè avevo 16 anni, 17 anni. Lo conosce da un sacco di tempo. Quindi è un batterista incredibile, formidabile, di gusto, di tecnica, tutto quanto, però dato che ci conosciamo troppo bene, posso permettermi, forse solo io, non lo so, forse solo altri. Io vi posso dire... No, Simone, guarda, sto pezzo fai soltanto così col chiavesone e basta. E basta. Perché no? Perché non puoi fare troppo. E lui in realtà... Vabbè, se non mi hai poi realmente fatto. Imposto di non muovermi. Esatto, no. Una cosa dicevi mentre il pezzo andava sempre, che c'è uno strumentista non italiano, sì, un artista americano. Una collaborazione che è nata poi da una stima che provo io per questa musicista di Seattle che si chiama Amy Denio. Amy Denio, esatto. E io l'avevo scoperta. Di Seattle, è importante dirlo questo, Seattle. Quindi sì, rock che si funge da costruzione abbastanza armonica, molto delicata. Si è un po' tenuta anche lei allora praticamente. No, ma lei di fatto ha fatto un percorso incredibile che dal fine anni 80 fino adesso ha attraversato parecchie fasi di sperimentazione con tutti strumenti e le capacità musicali che ha, come ad esempio con il sassofono, è una sassofonista incredibile, con la voce, infatti sul finale tira fuori questi sovracuti che diciamo che è la prima volta che l'abbiamo sentiti mentre mixavamo, che ce l'ha appunto registrati a Seattle e ci ha mandato i file. Diciamo è stata proprio un'emozione incredibile, perché nessuno di noi si aspettava questo finale a questo livello, questi sovracuti così belli. E la cosa appunto è nata con uno scambio di mail, poi lei è innamorata dell'Italia, si sforza a parlare italiano e ci riesce benissimo. Vedi, caro Francesco, uno scambio di email, con lo scambio di email si fa una canzone, adesso. Beh, c'è gente che si sposa addirittura. Esatto, c'è gente che si sposa con questo, benissimo. Maurizio... sta ridendo, Simone sta ridendo. Sta ridendo, sì, sì. Non sono sposato. Ah, non sei sposata? Ecco, no, diciamo che Simone, essendo legato alla batteria in uno studio molto piccolo, non si può muovere, quindi la sua voce si sente a malapena. Ma nessuno ne sentirà la mancanza. Benissimo. Cosa dici, Manu? Cominciamo a suonare qualcosa. Proviamo, dai. Facciamo The Woeful Harbor, che benissimo, è la traccia numero 4. Numero 4 del disco. Nonché forse il pezzo più vecchio a livello che tu hai composto, che ho scritto. Benissimo. Home, the trains are gone. The rain is starting to fall. I had a really bad day. And I'm too tired to stay. Thank you. Blue Time. Blue Time Live. E allora, amici di Blu Radio Veneto, ancora un saluto da Francesco Galante. Come avete capito, siamo all'interno di Blu Time Live, perché questa sera abbiamo in questo sabato speciale con noi la band di Manuel Volpe, con l'ascolto dal vivo dei loro pezzi, ma anche qualche brano da CD. E io ricevo immediatamente la linea al nostro esperto musicale, il nostro musicologo, che è Maurizio Calzavara. A te, Maurizio. Grazie Francesco, musicologo, sì, esperto, faccio parte del gruppo, ecco, diciamo così. The Woeful Harbor. Come, perché, come hai detto? The Woeful Harbor. Sì. Ok, come cerchiamo di allargare l'orizzonte su questo pezzo. È un valzer lento, secondo sì. me. Valzer lento, c'è un contrabbasso, Qui non c'è il contrabbasso, che abbiamo motivi di spazio. C'è un contrabbasso che dà l'input a proprio il pezzo, dà proprio la strada maestra al pezzo. Esatto. E la... In realtà adesso abbiamo avete sentito una versione con una batteria jazzata, certo. Che sul disco invece rimane proprio un tre quarti più strutturato e più un pelo più massiccio, diciamo, sì. Quindi proprio più valzer. Il contrabbasso, quello di tanto Stefano... siamo con chi lo suona. Esattamente, il disco. È il contrabbasso di Stefano Risso, che è un musicista jazz che vanta un curriculum incredibile, e anche qui la cosa bella è che io il primo anno che mi sono trasferito a Torino, cercando un po' una serie di musicisti con cui tirare su questo disco, capito nel sito il sito internet di Stefano Risso, e scopro che mi abitava dietro casa. Ah, perfetto. Quindi io mando un'email, gli dico che abito appunto a 5 minuti, meno di 5 minuti, proprio ci vedevamo dal balcone, e lui dice ok, vengo a prendere un caffè, ne parliamo. Uh-huh. E così è nata questa collaborazione, che poi appunto in questi ultimi 3 anni è diventata anche, posso dire da parte mia, una bella amicizia, con un certo scambio anche di opinioni, di cose. Di fatto lui ha una maturità sia artistica che anche di età rispetto alla mia, che ci crea proprio un... C'è una simbiosi, sì, una musicale simbiosi, fra comunque, di voi. E nulla. Bene, il pezzo è venuto molto bene, è venuto bene anche qua dal vivo. Chiaramente stasera abbiamo la batteria, abbiamo il clarinetto, abbiamo la tua chitarra effettata con un bel amplificatore Vox. La scatola è quella di una volta, ma esatto, non è così. Ma no, non è quelle cose che sembrano vecchie. Esatto, hanno rifatto la scatola, però... l'amplificatore è nuovo, però sì, l'idea è quella positiva di una volta. Bene, il pezzo era molto valido musicalmente e l'hai inserito, che numero della scaletta? È importante anche quello, secondo me. Nel numero 4. Nel numero 4, quasi al centro dell'universo, sì. Sonoro. Perché mai al centro? Perché la scaletta, cari ascoltatori, non è una cosa fatta a caso, è fatta con una certa idea. È così, caro produttore, o presunto tale? No, è assolutamente così. Provi avvicinati leggermente. Sì. La compilazione della scaletta è stato uno dei momenti più infelici della produzione. Ah, più infelici? Come mai più infelici? Più sofferti, più sofferti perlomeno. Perché diciamo che le fasi di composizione e registrazione dell'album sono state abbastanza lunghe e serenamente travagliate, serenamente nel senso che la produzione è stata un'esperienza divertentissima, veramente appassionante. Travagliate perché insomma non si è partiti con le idee troppo chiare, o perlomeno avevamo idee abbastanza chiare sul da farsi all'inizio, e poi queste idee sono evolute anche in maniera abbastanza radicale in corso d'opera. Quindi avete cambiato tutto o quasi? Sì, abbiamo riregistrato la maggior parte dei pezzi del disco. C'è stata una prima sessione di registrazione in cui abbiamo la faccia su io sì. Non parlo, si vede tutto. È stata una prima sessione di registrazione massiccia in cui abbiamo registrato una dozzina di brani. E gli arrangiamenti erano più, in un certo senso, più ricchi di quelli presenti su questo disco, e anche più aggressivi, più cacciaroni, se posso dire, nel senso che il disco nella sua veste finale è un disco quasi interamente acustico, mentre c'era una bella presenza di strumenti elettrici nella prima versione, quindi chitarre elettriche anche distorte, organo elettrico anche distorto, l'organo elettrico, eccetera. Perché questa radicale, questo radicale cambiamento? Ma è stata un'idea che è venuta dopo? È stata un'idea che è venuta dopo, nel senso che ci siamo accorti che per dare un'unità a quello che stavamo tirando fuori era forse necessario rileggere i pezzi in una chiave un po' più distante da quelle che erano state fino ad allora le nostre frequentazioni meno distorte, privilegiate, nel senso che anch'io arrivo da... Ma lui è agitatore noise, quindi... Lui, ma anche io ero. Nel, anche tu eri agitatore. Esatto, in Piemonte facevo il mio lavoro. Sì, con un basso che veniva sistematicamente scambiato per chitarra elettrica, perché quindi ci tiravamo su un suono notevolmente agitatore. Esatto, allora. Un po' acidello. Comunque, appunto, in questa risistemazione del disco, alcuni pezzi sono saltati, se ne sono aggiunti di nuovi, gli arrangiamenti sono cambiati, alcuni in maniera più superficiale, altri in maniera radicale. Ad esempio, il primo pezzo che abbiamo sentito da disco, The Latest Rose, nella prima versione era appunto, aveva un'impronta molto più quasi da banda sgangherata, cioè c'erano più fiati, un organo elettrico distorto, delle percussioni anche se distorte, facevano un bel tappetone, esatto, bello polveroso sullo sfondo. Benché quella versione mi piacesse tantissimo, abbiamo visto che non aveva nulla a che vedere con la direzione che stava prendendo il disco e abbiamo dovuto quindi risistemare la cosa. E la sistemazione della scaletta, come dicevo, non è stata cosa semplice, perché appunto nel disco convivono diverse anime, che non è stato insomma, ci ha richiesto una certa fatica riuscire ad accordarle tutte quante. Beh, insomma, dimmi Manuel, che all'inizio volevamo fare il vinile, no? Sì. dobbiamo fare il vinile a tutti i costi, e quindi anche la scelta di, ad esempio, Penumbra come quinta era proprio dire fine lato A, Dogs inizio lato B. Perfetto. E quindi adesso ancora, quando mi capita un po' di riascoltarlo, di vedere quella scaletta, la vedo sempre così, come fino a Penumbra, e quindi contiene ancora la traccia che abbiamo sentito prima, quella che abbiamo suonato live. Poi si gira il vinile. Si gira il vinile e inizia Dogs. Inizia Dogs. Il vinile non c'è stato, purtroppo. Il vinile non c'è stato per questioni poi... più che altro organizzative, poi per gestire bene la promozione, quindi c'era una spesa notevole, allora abbiamo detto rimandiamo la cosa, ma non... Sai cosa di vinile, il vostro album, il vostro CD, anche la copertina, vero Francesco, molto bella. Sì. Se fosse stata più grande, appunto, sarebbe stata molto bella, molto significativa. Ricorda un po', ti ricordi Highlands di King Crimson? No, ora non ce l'ho presente. Ecco, Highlands di King Crimson aveva... Quel cielo un po' particolare, Highland di King Crimson, mi ricordava, a questo si parla di 30 anni e più fa, però sai, il vinile è molto importante, molto significativo. Sì. No, volevo ricordare che Maurizio Calzavara vive di ricordi. Sì, è vero. Ha una certa età. Allora, King Crimson ricordi sono ricordi rispettabilissimi. Esatto, qualcuno mi difende questa sera. Sì, no. Ma d'altronde poi noi speaker radiofonici amiamo associare le canzoni alle copertine, perché siamo nati così, no? Cioè la copertina faceva parte integrante assolutamente della canzone, perché serviva poi per cercarla quando nel vinile dovevi andare a trovare il disco giusto al momento giusto. Vabbè, insomma, comunque il fatto di avere un CD fisico per me è sempre importante, piuttosto che trovarsi un CD scaricato da iTunes, per quanto possa essere economicamente vantaggioso e anche facile arrivare a scaricare una canzone, però la copertina e un CD in mano è sempre, e ovviamente anche un vinile è sempre tutta un'altra cosa. Allora, abbiamo parlato di Dogs Heart, tu hai detto solo Dogs, il titolo è Dogs Heart, allora io direi che possiamo andarcelo a sentire. I sold my love for him. sand, bitter kisses under her cold moons, few smiles and dirty rough hands, summer wars in tiny rooms. Instead of laying by her sand, I'm wiping her grave down. I get nothing. Blue Time Live. E allora abbiamo riascoltato la canzone Dog's Heart dall'album, che ha un titolo veramente molto lungo. si può abbreviare con Gloom Lies. Comunque ancora ha un senso anche in inglese. Quindi... Bene. Va benissimo. Quindi Gloom Lies forse è più facile per gli anche amici, per gli amici. Ormai siamo amici. Allora, Manuel Volpe con la sua band, che sono venuti a trovarci in questo sabato 11 maggio. Maurizio. Sì, vorrei sottolineare una cosa in questo pezzo, Manuel. Il finale decisamente noise, secondo me. C'è questi secondi finali che riprendono il discorso che tu avevi fatto prima delle tue peregrinazioni sonore. E in più in realtà c'era anche la cosa di... Dimmi. Il titolo di questo brano appunto è Il cuore di cane. E quindi il contrabbasso, siccome anche Stefano, però lui non è sul noise, già lui è nel settore della musica d'avanguardia, e quindi quando uno non lo sa fare dice che fa noise, quando quelli che lo sanno fare lo fanno bene fanno musica d'avanguardia. Io faccio noise e lui fa musica avanguardia, quindi fa tantissime cose con il contrabbasso preparato, un po' la John Cage, e quindi con l'archetto ha tirato fuori questo... Ecco, un pezzo live come questo, con una band più allargata di stasera, come si fa? Come si può fare una cosa simile? Secondo me con l'approccio che si ha un po' agli standard jazz, nel senso che alla fine è un pezzo fatto su un giro d'accordi che si ripete all'infinito. È molto swing, sì. C'è swing sicuramente. Una parte A e poi c'è la parte B che è un ritornello, che però è un ritornello che succede solo una volta. E quindi secondo me la cosa giusta è quella di prendere lo spartito con il giro d'accordi e improvvisarci sopra e sentire proprio cosa ha da dire il brano, capire quando c'è qualcuno che canta, quando quello ha finito di dire la sua frase può intervenire l'altro a dare un un colore, un segno di assenso, dissenso rispetto a quello che ho fatto, un po' come succede nella musica d'improvvisazione. Però qua non c'è improvvisazione nella stesura del disco, però dal vivo ci può essere. Sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Nella però stesura del disco ce n'è stata parecchia. Ce n'è stata lo stesso. Sì, sì. Però nel momento in cui va incisa diventa la parte. Ho capito. Cioè c'è stata l'improvvisazione nell'apertura, nell'idea di fare il pezzo. Poi quando siete arrivati a decidere di incidere, le cose si sono fermate. Ma e tante cose sono successe proprio nell'incisione stessa. Esatto. Alcuni pezzi sono nati. Ma uno in particolare, la settima traccia del disco, Maria, è nata proprio in studio. Sì, nel senso, in quel c'era momento il testo, là. C'era la cosa e poi ok, mettiamo questo, mettiamo quest'altro, io faccio una chitarra per tutto il pezzo, poi la solo, quello che poi è diventato un tema in realtà è un'improvvisazione del sassofonista. Ah, ho capito. Poi dopo, siccome un musicista anche lui incredibile, Luca Zennaro si chiama, ha fatto un assolo talmente bello che è diventato un tema e quindi divenire continuo, esatto, delle cose e ognuno cosa mette la sua e diciamo che l'approccio poi è stato quello. Io posso arrangiare i violini o pensare a una parte ritmica, però poi di fatto si lascia spazio ai musicisti, perché di fatto ok, è il mio disco, ma voi dovete mettere il vostro. Questo vuol dire tutto. C'è un'idea di gruppo in questo disco, assolutamente. Io ho sempre avuto gruppi, dal jazz. Io parlo sempre in prima plurale, perché anche se c'è scritto Manuel Volpe lì, di fatto siamo i Manuel Volpe. Ah, perfetto, cosa bellissima. Poco mi soprano. Esatto. Ecco, esatto, leggermente diverso, ma l'idea è questa. Sempre musica. Comunque la questione degli arrangiamenti per l'esecuzione dei pezzi dal vivo è interessante, perché appunto il disco non è nato come cioè non è il prodotto del lavoro di una band che lavora la stesura del disco, registra, ognuno fa la sua brava parte, si è partito dai pezzi, si è cercato di studiare una veste ideale per ogni pezzo e quindi in alcuni brani gli strumenti sono magari soltanto 3 o 4 e in altri arriviamo a 9. Per esempio, sì, in Lay to Rest ci sono, magari si sentono poco, ma ad esempio nel finale, che è così pomposo, c'è un organo elettrico che carica le basse, un sax baritono che dà un po' più di mordente ai battere, eccetera. E riproporre questi pezzi dal vivo rappresenta anche un riconoscerli, perché di fatto li stiamo cambiando ogni volta. Diciamo, abbiamo quel bravo foglio dove sappiamo com'è quel pezzo, com'è, dove deve andare, ma poi lo si improvvisa. E per esempio oggi siamo in 3 con chitarra, banjo, clarinetto e percussioni. In altre occasioni siamo stati in 5 con 2 chitarre elettriche, nel disco 2 chitarre elettriche non le si vedono mai, una batteria, nel disco la batteria la si vede da lontano a tratti. Lui si vede da vicino per cui davanti. Un flauto traverso, esatto, che non c'è nel disco. Questo è un concetto, a proposito di ricordi di cui citava Francesco, un concetto si usava negli anni 60, fine anni 60, inizio anni 70, le band allargate, le cosiddette jam session, per citare i Grateful Dead, che ne avevano fatti un sacco di jam session. Questo è un discorso interessante, secondo me. A proposito di jam session, suoniamo un altro pezzo, che cosa? Ok, facciamo Lay to Rest. Perfetto. 1, 2, 3, 4. Thank you. Complimenti, è molto molto bella questa canzone, ricordiamo il titolo? Sì. Late Rest. Canzone molto interessante, qui nella parte dal vivo, cioè da studio, da disco, c'era l'agitatore, esatto. L'agitatore noise. Eravamo in 10 persone in uno stanzone in questa cascina nelle Langhe piemontesi, 10 amici che hanno deciso di mettere dei microfoni e spaccare un po' di cose. Quindi ci sono dei cocci, dei sì, sassolini, delle porte, sedie, pietre. E era un po' anche per dare un'idea di improvvisazione alla fine. Sì, perché anche quella. In più crea anche un po' un paesaggio sonoro, anche un'ambientazione al brano, rispetto anche un po' al testo, al... Insomma, un brano lo fa diventare un po' che diventa ostico nel momento. E lo fa diventare anche un po' colonna sonora, no? Nel momento in cui il brano scende giù e si sentono questi rumori che sembrano più presi... Sì, qualche film di David Lynch, per esempio. Sì, Lynch o Jarmusch. No, Jarmusch, esattamente. Quindi potrebbe essere benissimo una colonna sonora. Perché certi pezzi si prestano decisamente come colonna sonora a questo tuo disco. Secondo me. Sì, è una grossa passione. Ti quella piace del cinema? Del cinema... E in più le colonne sonore proprio... L'idea di colonna sonora è un concetto che mi piace molto, soprattutto quando, ascoltando quelle di grandi artisti che hanno saputo fare le colonne sonore e renderle anche dei brani belli, e non solo dei commenti, dei tappeti che accompagnano l'immagine, ma quei temi che appunto ti rimangono poi... che possono essere anche... scindibili dal film, o comunque ogni volta che li ascolti pensi a quel tipo di ambientazione. In questo caso appunto Nino Rota, ad esempio, è un ascolto che facciamo sia io che Maurizio che Simone anche a casa senza guardare il film, nel senso quei dischi che te li puoi mettere sono belli, i brani sono belli. Sì, perché Nino Rota e Morricone hanno questa capacità di fare colonne sonore che sì, se uno prende una colonna sonora può sentirla senza nessun problema, anche se non vede il film. Esattamente. Decisamente, quindi. Cosa che invece gli americani fanno in maniera diversa. Sono almeno... Hanno un'idea diversa. Un'idea diversa, esatto. Poi non posso dire di conoscere tutti gli autori americani. Cioè la colonna sonora come proprio vicina al film, esatto, che non si può usare senza il film, mentre in Italia hanno un altro concetto. Beh, Nino Rota, soprattutto Nino Rota è importante per Manu, perché Nino Rota riecheggia nell'aria qualche volta dei pezzi, assolutamente. Secondo me c'è questo grande amore che tu hai per Nino Rota. Nino Rota anche a Fellini, che sì, porta a Fellini. Senz'altro, i colori di Fellini mi piacciono molto. Anche proprio scenografici dei vestiti, del tipo di quadri che crea con la macchina da presa. Però sì, Nino Rota in questo disco, diciamo che c'è un pezzo strumentale, un pezzo che ricorda molto Nino che Rota. Quando l'ho fatto avevo detto: Maurizio, non lo mettiamo perché mi sento un po' in colpa perché c'è qualcosa che, diciamo, che io mi ho rubato malamente. Non rubato, però, ti sei però, ispirato. Mettiamola così, mi sono ispirato, però poi ho voluto sperimentare una cosa che lui ha già fatto, no? Benissimo. Diciamo, mettiamola così. Non so se... Boh, a me poi piace moltissimo il brano, dico, questo qua del disco. e alla fine niente, c'è stato. È anche un po' un tributo a questo ascolto, Porto Empedocle. Esattamente. Porto Empedocle, che è una città che sta in provincia di Agrigento, vicino alla terra dei miei genitori e di tutta la mia famiglia. Certamente. Adesso facciamo un altro pezzo live che a me piace. No, prima volevo chiedere una cosa, perché cantare in italiano invece? Cantare in italiano non sono capace. No, non riesco, non... Cioè, ma avete mai provato? No, io ho provato a scrivere cose, ma sai quando ti rendi conto di... Che la rileggi e non ti piace, insomma. Che non è un gioco da ragazzi, almeno... Cioè, sai, poi quando ascolti dei veri cantautori in italiano, io non lo so, immagino dopo aver ascoltato magari due o tre pezzi di Piero Ciampi, dici magari io non ci provo nemmeno a scrivere. Ti avvicini. Perché non la potenza delle parole è un'altra cosa, il suono. Perché Piero Ciampi, per esempio? Perché ad esempio uno che riesce a dire frasi comuni mandandogli un peso micidiale. Cioè frasi micidiali con parole comuni. Sì, forse, scusami, no. No, mi scusa, non volevo però è vero. Però comunque sì, di fatto è un autore che... E per questo è stato sempre relegato in una l'italiano, diciamo, poi io vediamo un po' cosa... Sì, rispetto, però ho scritto in spagnolo, però sul disco non c'è andato. Hai scritto anche in spagnolo? Ho scritto un pezzo in spagnolo, però non è capitato nel disco. Non si sa mai. Quando uno non parla nella sua lingua, insomma, c'è molto meno pudore per... Anche quello, sì, di certe parole, quindi... riesce forse più semplice appunto certo. Far arrivare i concetti senza esporsi, insomma, esatto. è una specie di timidezza nel non lo so. Non la vedo come una timidezza, cioè non vedo questa cosa come un problema rispetto al pubblico, ma rispetto all'autore. Cioè parlo per esperienza personale. Alcuni anni fa sono andato a vivere in Francia, non avevo mai studiato il francese, l'ho imparato così, vivendo nel paese, ed è stata una festa scoprire che potevo permettermi di dire cose che in italiano non mi sarei mai lasciato andare a dire, perché appunto alcune parole sembrano talmente trite che pesa cacciarle fuori dalla bocca, e invece in una lingua nuova... escono da sé. Ho capito. Vabbè, interessante questa cosa, ma poi non so come non si sa mai. Sì, alla io di fatto non mi sono posto, non sono capace, punto. Basta. Cioè, guarda, in realtà poi ci ho provato, mi sono impegnato, va però bene. Poi secondo non. Stavamo dicendo, interessante comunque, ma era una domanda che volevo farvi, perché poi ci si chiede, no, perché ci sta. Arriva a scrivere in inglese e fa un album in inglese quando, cioè io per esempio, vuoi che l'ho studiato gran poco perché ho fatto scuole particolari, proprio non mi ci vedrei, no, a parte che non sono un musicista, ma insomma, mi risulta proprio lontanamente inimmaginabile, piuttosto mi viene da scrivere, potrei scrivere qualche verso in italiano. Italiano sicuramente, però questo è, va bene. Andiamo a sentire la prossima canzone allora? Sì, live stavolta. Ok. She wasn't there to take care of my pain. Was getting older. She wasn't there to pick me up at 12 when I was out from school. She wasn't there to hold my forehead when I had my first pose. No, she was there to put out the fire. smoking. But she was there when she needed a game to play with once per week. I was afraid to be treated just the same as sometimes I did too. I was afraid, afraid you went away when I started loving you. I was afraid, afraid you went away when I started loving you. I was afraid, afraid you went away when I started loving you. Live Blue Time. Blue Time Live. Manuel Volpe a Blue Time Live in questo sabato sera, sabato 11 maggio. Ancora un saluto da Francesco Galante, Maurizio Calzavara e la band di Immanuel Volpe. Allora, dato che abbiamo capito Immanuel. Che Immanuel Volpe è più corretto dire così a questo punto. Allora, Maurizio. Sì, questo abbiamo sentito Maria Magdalena. Nel disco c'è il sax di Luca Zenaro, stasera sì. Il sax non c'è, ma c'è sostituito degnamente dal clarinetto e dai piccoli bonghi, posso dire così? Ma sì, guarda, che oggi... Sì, i piccoli bonghi, perché tu suoni i bonghi nel disco, nel pezzo. La postazione musicale. Dei piccoli bonghi. Sì. Ho visto che Manu ti ha dato l'input e poi hai cominciato a danzare sui bonghi. Sì, esattamente. È così? Leggiadramente. Il pezzo è molto bello, molto jazzato anche questo secondo me, e qui c'è la voce secondo me di Leonard Cohen, non c'è la voce di Tom Waits, c'è la voce, perché molti critici hanno scritto Manuel ondeggia, fiancheggia chiaramente a debita distanza Tom Waits. Secondo me no, Tom Waits non c'è, c'è Leonard Cohen che fiancheggi, soprattutto il periodo di Velvet Future ed altri dischi, secondo periodo di Leonard Cohen, o terzo a secondo dei critici. Io la sento così, chiaramente è tutta una cosa ipotetica, non reale, però cosa dici Manuel? Io dico che Tom Waits è stato un momento di svolta nei miei ascolti, diciamo così, poi soprattutto... due dischi in particolare, cioè non vado pazzo di tutta la discografia. Tutta la discografia molto copiosa, cioè diciamo che il Tom Waits blues non mi affascina come invece mi affascina il Tom Waits del più teatrale, più autore di colonne sonore, guarda caso. Certo, certo. Quindi di Blood Money e Alice, ad esempio, o Black Rider. Di fatto canto bassa tonalità, ma io canto pianissimo, invece Tom Waits canta molto più forte, ha una voce soul, io in realtà invece non me la sogno. E per quello quindi... ti avvicini con le debite proporzioni, assolutamente, cioè, perché un genio si deve sempre avvicinare con le debite proporzioni a Leonard Cohen. Leonard Cohen canta con la voce bassa, recita più che cantare, essendo un poeta prima e dopo un cantante. Io lo sento così. Sì, con le lecite. Con le lecite proporzioni. Sempre con le lecite proporzioni. Però è bello, significativo trovare qualche punto di riferimento. Sì, sì. Che musicalmente la musica ha tanti punti di riferimento. Dopo la musica di Manuel, di Maurizio e di Simone, chiaramente. No, ma diciamo che non abbiamo nessun problema a pagare pegno di tutto quello che ascoltiamo. E in questo disco in particolare. Diciamo che l'ascolto di Una faccia in prestito di Paolo Conte per me è stato... Ecco, anche Paolo Conte, parlando di italiani stavolta. Sì, parlando di italiani è stata una cosa, un modello di ispirazione molto forte nel momento in cui molto spesso non ci sono ritornelli ma ci sono i temi, cosa che ad esempio Tom Waits non fa. Esattamente. Tom Waits non lavora sui testi e... musicalmente arrangiatore incredibile, tutto quanto, però l'idea del... strofa, tema anche lungo, finale, strumentale, molto quell'approccio così jazz, diciamo che Paolo Conte è stato appunto... A proposito di temi ricorrenti, qui di solito facciamo una domanda di questo genere: i famosi dischi, Francesco lo sa, da portare su un'isola deserta. Stasera siamo in tre, facciamo tre a testa per dare un significato, una colorazione ai vostri progetti, alle vostre amicizie sonore, possiamo dire questo. Difficilissimo. Lo so che è difficilissimo. Queste le cose che in realtà no, te le pensi, no? Aspetta, prima o poi qualcuno me la chiede. Però, poi in realtà non te le dico. Allora facciamo così: mentre loro pensano a quello che potrebbe essere i dischi da segnalarci per portarli nell'isola deserta, noi andiamo a sentire una traccia da disco, giusto? Così. Credo che in scaletta dobbiamo ascoltarci la traccia numero uno. Esatto. Quindi vuoi dire qualcosa per così come preassaggio di quello che sentiremo? Non me ne voglia Simone, è un pezzo a cui sono molto legato, perché è l'unico pezzo in cui siamo solo io e Maurizio, e il produttore. Ho capito. E basta. Era un buon modo per iniziare il disco. Ruin, la traccia di Ruin. E Ruin l'andiamo ad ascoltare. E così abbiamo ascoltato la traccia numero uno dal disco di Manuel Volpe, il disco è Gloom Lies, eccetera, eccetera, eccetera, giusto. Con Erwin. Allora, Maurizio. Sì, perché è importante questa traccia? Mi dispiace per Simone, non ha partecipato nella traccia del disco, è importante per noi della nostra redazione, e salutiamo e ringraziamo Alberto Prisco, il nostro direttore artistico, che ha organizzato il live di stasera. Grazie mille Alberto. Perché a noi è piaciuto molto questo pezzo. abbiamo deciso di mandarlo in onda come una finestra su questo disco. È piaciuto molto perché ricordava a me personalmente Leonard Cohen e perché ricordava certe sonorità molto interessanti, molto delicate, ed era il primo pezzo del disco da aperto la finestra bene, a mio parere, e per quello l'abbiamo scelto. Sono contento. Ci ha soddisfatto integralmente. Per me è importante perché guarda, proprio per una cosa d'amicizia, nel senso, un po' un modo per sancire questo rapporto di amicizia che c'è tra me e Maurizio, che poi nel disco è diventato anche un rapporto di lavoro, chiamiamolo così con tutte le virgolette, del caso, di coproduzione poi di fatto, perché i brani sono miei, gli arrangiamenti e cose varie, però lui è stato praticamente fondamentale in ogni passo, non si è perso un giorno di registrazione, ha suonato tantissimi strumenti, ha dato tantissimi spunti anche di riflessione. Questo brano, diciamo che nel momento in cui entra il clarinetto per il suo solo di quattro battute, nel momento in cui l'avevo sentito, è cambiato il mood di tutto il brano. Perché invece in realtà era un brano un po' più francese, no? Più francese. Sai, più da bistrò. Esatto. Visto che ha citato invece, l'attore Eiffel nel testo. Esatto. E invece il suo assolo di un'eleganza incredibile, che proprio quando abbiamo detto, mamma mia, manca solo il papiglione. E ha un po' cambiato poi quel mood, quindi è diventato molto più fumoso, con dei leggeri riverberi nelle cose, certo. Molto più rotondo. Bene, avete pensato? Allora abbiamo avuto quei tre minuti per pensare, sì, ai famosi dischi su un'isola deserta. Inizia Maurizio, inizio io. Io, vabbè, di fatto non potrei non mettere Una faccia in prestito di Paolo Conte, un disco di Maria Teresa Vera, che è una cantautrice della trova cubana, si chiama appunto Cuban Legend, una raccolta postuma che però la devo ascoltare ogni tanto, mi fa proprio star bene, e In utero di Nirvana. Ah, in Nirvana, hai citato in Nirvana. Sì. Caro Maurizio, tocca a te adesso. È durissimo, mi pentirò fra un minuto di tutto quanto. Allora, andando a rispescare nei cari ascolti di gioventù, che sui quali ritorno volentieri. Beato anche te, adesso, sei giovanissimo te, quindi. Metterei una raccolta di singoli degli Arabon Radar, che sono uno dei gruppi più fastidiosi a livello di impatto fenomenale. Mm. Poi metterei una, qua non si può parlare di dischi perché non c'era l'LP, però metterei una bella raccolta di brani scelti di jazz dei primi anni 20, jug bands e dintorni, e poi datemi ancora due minuti, intanto passo la palla a Simone per il terzo attesissimo disco, ci ritroviamo tra un attimo. Tante raccolte, tante. Allora, per primo i Rush. Ah, i Rush, bene, interessante. Non so ancora bene quale di preciso perché... Non importa, una raccolta di Rush va bene. Beh, la raccolta si può fare. Sì, abbiamo identificato l'artista, possiamo anche farla. Ok, poi qualcosa di João Bosco. Che mi è piaciuto particolarmente. Molto raffinate le scelte di ragazzi stasera, no, vero aspetta. Francesco? Molto raffinate. Dipende da che isola è comunque. Adesso magari era un'isola tranquilla, no? Così, allora... Però dipende. Qualcosa di reggaeton, tipo. A Ibiza. Sempre in tempo. A Ibiza un po' diverso. No, non lo so, ho avuto tante influenze musicali, dal jazz alla musica cubana, al funky, fusion... Quindi metterei un'altra bella raccolta di artisti neri e non tutti insieme in un calderone, dal jazz al fusion al funk. Ho capito. Tutta la vita. Intanto ho deciso qual è il mio terzo disco. Bene. un disco di cui non ricordo il titolo. Io voglio di scoprirlo. Che voglio di scoprirlo. Si passi la discografia di Mulato Astatke, che abbiamo visto recentemente a Torino. Musicista. E questo etiope. Non lo conosco. È un compositore etiope che ha iniziato a produrre musica negli anni 60. Ha studiato in Inghilterra, negli Stati Uniti. E fenomenale. Lui è un vibrafonista, percussionista e pianista. E l'abbiamo visto poche settimane fa al Torino Jazz Festival, dove ha suonato con una gran bella band, riproponendo dei suoi vecchi pezzi, alcune composizioni più recenti. È un musicista che mescola tantissime influenze e riesce, diciamo, a fare qualcosa che è molto vicino al jazz, ha degli spunti. Prende spunti da tantissimi generi. Qualcuno potrebbe definirlo world music, preferisco non farlo perché è un genere calderone nel quale in me vengono buttate a volte parecchie cose che non apprezzo, però appunto ritroviamo nei suoi pezzi uno veramente una grande capacità di gestire del materiale tutto sommato semplice, perché tanti pezzi si articolano intorno a un solo accordo, ma sviluppandoli in maniera veramente sorprendente, ricca, godibilissima sempre. Quindi un musicista apparentemente semplice che in realtà nasconde tante sorprese, consigliatissimo Mulato Astatke. Benissimo. Voi venite da Torino, cosa si respira musicalmente adesso? Una volta Torino a culla di tante band alternative, ricordo, conosciamo tutti, non erano alternativi, ci sono ancora adesso gli Statuto, ma c'era Lalli e altri musicisti di un notevole spessore. Adesso a Torino cosa si respira? È viva come una volta oppure un po' meno musicalmente? Questo è il terzo anno che vivo a Torino, vivi da poco, quindi a Torino. Di fatto ho scelto Torino al di là dei motivi universitari, però anche perché c'era un certo fascino, un certo anche movimento, che mi ha attirato un po'. È molto indie. Devo capire, esatto, sì. Devo in realtà ancora un po' inquadrare bene. I Franti, ti ricordi? Esatto, Lalli faceva parte dei Franti, gruppo alternativo di notevole spessore. La Toast Record era un'etichetta di un certo spessore. Proprio l'etichetta, dopo citiamo la Buzz Supreme, che è l'etichetta che vi ha consentito, l'etichetta vi ha dato una mano notevolissima per la chiusura del disco. Sì, ritornando alla Toast Record, l'etichetta di Torino, aveva proprio l'animo di predisporre agli emergenti. Adesso questo discorso di emergenti, le etichette non lo fanno più, assolutamente. Non si fidano più, non vogliono più farlo. È un peccato, sì, è un grande peccato. Ci sono tantissime, diciamo, ragazzi appassionati che preferiscono investire dei soldi e fare comunione con altre etichette, chiamiamole così. Quindi nascono queste coproduzioni che sono la linfa vitale in realtà per tutta la musica underground. E a Iesi ad esempio ce n'è una, che era la Bloody Sound Factory, che ha cresciuto un po' una città, nel senso che gli eventi organizzati da questi ragazzi e i dischi pubblicati da loro hanno poi dopo attecchito, fatto cultura in una piccola città. In una grande città in realtà non lo so, io devo ancora capire, perché appunto 3 anni sono pochi. Sono pochi, esattamente. Allora, la Buzz che importanza ha avuto nella stesura dell'album, Manuel? Nella stesura... Cioè, che mano ti ha sì, dato? Sì, che mano? Allora, di fatto sta curando tutta la promozione e quindi già è una cosa... Per me è fondamentale, nel momento in cui non sarei mai capace di gestirla da solo, e in più è la prima volta, il primo disco, quindi diciamo che abbiamo sudato tante camicie e fatto tanti sacrifici per questo disco, e valeva la pena consegnarlo a delle mani, almeno secondo me, poi di fatto valeva la pena consegnarlo a delle mani sapienti e non provare così a mandarlo un po' qua e là. E con Andrea ci siamo cominciati a sentire a settembre dello scorso anno e mi ha dato subito fiducia, gli è piaciuto tantissimo il disco e quindi abbiamo cominciato un po' a parlare e sviluppare le idee. Sviluppare le idee, e poi dopo di fatto è anche l'editore della, di tutti i brani. E un rapporto che è nato anche lì tramite email. Purtroppo. Poi purtroppo, dopo l'incontro vero e proprio c'è stato a febbraio, dove ci siamo proprio visti di persona. È stata una bella sorpresa. Andiamo a sentire allora la prossima canzone tratta dall'album di Manu e Volpe. La traccia è la numero 8, quindi Porto Empedocle? Esattamente. E la andiamo a sentire. Allora, la canzone che abbiamo ascoltato era Porto Empedocle dal nuovo album di Manuel Volpe. Intanto è caduto qualcosa, si è fatto male qualcuno? No, fortunatamente tutto, tutto ok, tutto molto bene, funziona tutto ancora in questo nostro sabato sera, amici di Blu Radio Veneto. Allora, una domanda la volevo fare io, perché abbiamo parlato molto di email, ma a questo punto c'è un sito, c'è un posto dove i nostri amici che magari sono incuriositi da quello che hanno sentito in radio si connettono e insomma vi vedono, vi ascoltano? Cosa c'è nella rete di internet? C'è un sito internet che è www.manuelvolpe.it. Facile, facile. E poi c'è anche su vari social network, Facebook, Twitter, sì. Adesso non mi ricordo più. non so, molto un amante. Però vabbè, comunque ci sono, c'è tutto. Dal sito è anche possibile ascoltare alcuni pezzi in streaming. È possibile anche acquistare il disco. Ed è anche possibile acquistare il disco. I famosi download digitali, no? Non solo. Ma è proprio vabbè. Anche che acquistare il disco, poi io o Frank, il ragazzo dell'etichetta, ve lo mandiamo a casa. Fisicamente? Sì, fisicamente. Perché Frank, salutiamo Frank. Salutiamo Frank. Grandissimo Frank Alloa, batterista della Moncada, che ha anche prodotto l'etichetta che ha fatto uscire il disco. E tu mi dicevi di microfono spento che materialmente il disco è stato fatto da chi praticamente? Da la Gottman Records, che è appunto nella figura di Francesco Alloa, Frank, questo carissimo amico che ci ha creduto fino in fondo e ha fatto dei sacrifici, e per questo lo ringrazio e lo ringraziamo tantissimo. In Porto del Pedocle ci sono tanti strumenti. Sì. Tanti, è un pezzo strumentale, tanti strumenti e tanti ricordi di colonne sonore, quindi Nino Rota che abbiamo citato. Perché due pezzi strumentali in un album da 9 tracce? Qual motivo li hai inseriti? Maurizio, e tu li avete inseriti? Beh, il rapporto tra strumentali e cantate, originariamente, cioè nella prima idea di disco, sarebbe stato ancora più a favore delle strumentali. Ah, ancora di più, cioè, allora. L'idea era quella di inserire degli intermezzi dei brevi intermezzi musicali di un minuto, un minuto e mezzo, due, tra brani cantati. Poi appunto nel processo di riscrittura, risistemazione del disco, la cosa è caduta, ma sono rimasti Penumbra, che è la quinta traccia, certo, quella che idealmente doveva chiudere il lato A del vinile, che al momento non esiste, e poi appunto Porto Empedocle, che invece è stata composta dopo ed è andata a sostituire un'altra traccia lunga strumentale che doveva, insomma, che non è storie complicate, ma nulla di strano, insomma, trovare dei brani strumentali non è così, come si può dire, non ci pare strano, dal momento che lavoriamo molto su brani strumentali anche al di là di quello che facciamo per questo disco. Ad esempio, adesso stiamo lavorando alle musiche per uno spettacolo di teatro danza. Vedi. E appunto, non, insomma, sono brani non cantati. Vedremo cosa uscirà fuori. Emanuele suona anche il trombone, mentre Simone le batterie, drums, più di una. Come mai, Simone? Tutte le batterie. Sì, no, allora, calmi. Io ho letto solo del libretto. Diciamo che stava finendo il budget. Questo è il motivo. E allora ho trovato un trombone a 200 euro, l'ho preso e ho detto: mi imparo questa parte che devo fare piuttosto che andare a cercare uno strumentista. E allora, però ho detto: magari poi domani mi ritorna utile, magari è l'occasione buona per impararlo. E quindi in quel senso... Di necessità virtù, insomma. Esattamente, quindi adesso Manuel suona il trombone, magari no. No, perché poi magari qualcuno ci crede. Allora, Maurizio, adesso facciamo sentire che cosa? Il brano strumentale, la traccia numero Penumbra, 5. Penumbra, allora, che abbiamo appena citato, l'andiamo a sentire ancora dall'album e poi chiuderemo in bellezza con un brano dal vivo con Manuel Volpe. Thank you. E queste atmosfere con i grilli di sottofondo fanno parte del brano Penumbra, quinta traccia appunto del disco Gloom Lies di Manuel Volpe, e l'atmosfera così mi ricordava, mi ha portato ai ricordi a tipo una colonna sonora da film, da favola, quale Pinocchio per esempio, non so, io ho avuto questa sensazione. C'è una bella storia legata a questa canzone. Beh, intanto è stata registrata in circostanze interessanti, cioè all'aperto di notte in un prato in campagna. Il disco l'abbiamo registrato in una casa di campagna molto isolata e si andava avanti a registrare anche fino a tarda ora perché non si disturbava nessuno, e ci è venuta l'idea di registrare appunto la traccia di clarinetto nel prato di fronte alla casa, quindi il tappeto di grilli che si sente nel pezzo e il tappeto di grilli del prato che sta vicino a casa mia a Borgomale. E un'altra bella cosa che sul disco ahimè non si sente, però molto evocativa, avrebbe aggiunto qualcosa al rimando al contesto fiabesco. Una volta che abbiamo registrato il pezzo, per ottenere un suono più, come si può dire, per dargli un riverbero naturale molto più grosso, sì, per dare più respiro alla cosa, l'abbiamo trasmesso sempre di notte su un impianto a volume abbastanza, cioè volume adeguato, in una stanza di questa casa di campagna con le finestre spalancate e un bel microfono sensibilissimo a una decina di metri di distanza nella strada. E quindi il microfono registrava il brano riverberato dalle stanze, sì, della casa, e nel momento in cui è caduta l'ultima nota, dal paese in fondo alla vallata hanno cominciato a suonare le campane, e questa cosa poi era rimasta nella registrazione, poi si è deciso di non tenerla. Comunque è stata veramente una sorpresa così quando ci siamo ritrovati a riascoltarlo. Quindi proprio l'elettronica qui non esiste. No, se n'è andata. Esiste nel senso che ci sono magari i microfoni molto molto particolari, ma insomma alla fine è un minimo, non c'è l'elettronica nella musica. Quello credo fosse un microfono degli anni 50. Ah, ecco. Sì. No, che abbiamo il ragazzo che ha registrato il disco, che è fonico, Massimiliano Moccia, è un appassionato di strumentazione vintage, quindi di ha un bel parco microfoni a nastro, quindi anche Neumann degli anni 70, quindi diciamo che anche il suono di questo disco è dovuto dalla sua conoscenza nel piazzare i microfoni, ma anche da un certo tipo di strumentazione che è stata... Magari potrebbe avere quei pezzi di ricambio che noi cerchiamo per mettere a posto i nostri. Esatto. Di... è vero. Vabbè, non so se ve li cederebbe volentieri. Va bene. Maurizio, allora abbiamo trascorso una bella serata in questo sabato con Immanuel Volpe. Prima di chiudere con il live, c'è ancora qualcosa che dobbiamo, come dire, snocciolare? Sì, dobbiamo intanto ringraziare Simone e Maurizio che hanno accompagnato Manuel stasera. Gloom Lies è un disco molto bello da ascoltare con attenzione, perché adesso i dischi bisogna sentirli con attenzione, spesso e volentieri usa e getta. Non è così, assolutamente. Noi siamo molto contenti che tu sia venuto, grazie, a trovarci stasera. Anch'io. Davvero. Ti ringraziamo molto e speriamo di averti un'altra volta per il prossimo album che, dicono, sia già pronto o quasi, qualcosina è già sì, pronta. Sì. Indiscrezioni di sorta. Bene, Francesco, abbiamo finito. Allora io ringrazio Manuel Volpe e compagni, ringrazio Maurizio Calzavara, da parte mia Francesco Galante è tutto per questa sera. Andiamo a chiudere la nostra puntata di Blue Time Live con Manuel Volpe. La canzone che ascoltiamo è una cover. È una cover perché... una cover che non c'entra niente. È giusto per far sentire che esiste anche un Manuel Volpe che gioca con la musica. Esatto, perché in realtà una volta con la chitarra sul divano ho cominciato a fare questo pezzo che è What is Love di Hathaway. Un vecchio successo. Esatto, tirando giù la parte armonica, gli accordi, mi sono proprio immaginato che in realtà lui quando l'ha scritto l'ha fatto così. Poi dopo, quando è andato in studio, l'ha fatto in modo diverso. Cos'ha? Come è uscito? Esatto. Ha avuto un grande successo. E ha fatto un affare. Esatto. Non so se ha guadagnato un qualcosina a livello di economico. Sì, sì, ci ha guadagnato sicuramente. Allora, e la improvvisiamo, la improvvisate. Complimenti. Allora, grazie a Manuel Volpe. What is Love, cover di Hathaway. What is love, baby? Don't hurt me, baby. Don't hurt me no more. What is love, baby? Don't hurt me, baby. Don't hurt me. Blue Time Live.